Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora la giornata economico-finanziaria si sta contraddistinguendo per borse pesanti e devo dire ancora una volta Milano è la peggiore. Il FTSE MIB è sceso in questo momento sotto i 19.000 punti, ma la cosa più interessante è che perde il 3% Milano in questo momento, perde il 2,1 Francoforte, l'1,90 Parigi, il 1,5% il calo di Londra, mentre l'America tutto sommato tiene bene, nel senso che il Dow Jones perde solo lo 0,1%. Di nuovo sembrano pesare in maniera ancora più significativa oggi rispetto a due giorni fa i timori espressi lunedì dalla Banca Centrale Europea, quando la BCE ha stimato in 280 miliardi di euro le perdite che il sistema bancario europeo potrebbe ancora registrare nei prossimi mesi. Sono una cifra enorme, immensa, alcuni dicono folle, però insomma, tant'è. E non è un caso che a Milano i peggiori titoli siano i bancari, non solo i bancari ma anche i bancari. UbiBanca meno 6,90, Unicredit meno 6%, Mediobanca meno 5,5%, il Banco Popolare perde il 5% e anche il Popolare di Milano perde il 5%, Mediolanum perde il 4,70%, Unipol il 3,72%. In realtà il peggior titolo in assoluto è Prismian, meno 8,8%, poi Tenaris, meno 7,1%, Saipem, tra gli altri, tra quelli che perdono di più, perde il 5,90%, Autogrill il 5,60%, non giustificato dall'euro-dollaro, nel senso che il dollaro è leggermente in rafforzamento, l'euro è sceso a quota 1,38 e sappiamo che Autogrill ha almeno metà, diciamo, del suo fatturato in America espresso in dollari, quindi il motivo non si chiama dollaro. Andiamo avanti, le CIR meno 5,40, Buzzi Unice meno 5,2 e ancora in pregiro meno 4,90, Pirelli meno 4,5, Monte dei Paschi forse l'avevo saltata, perde il 4,4%, ST Microelectronics il 4%. Chi guadagna? Qualcosa c'è. Bulgari più 1,80, Finmeccanica più 1,4, Terna più 0,3%. Parleremo chiaramente anche di borsa, parleremo anche delle obbligazioni, del debito contratto dagli enti locali italiani, perché oggi c'è una pagina interessantissima su Sole 24 Ore che racconta come praticamente tutto si tenga, come dicono i francesi, per cui la qualità del debito del Comune di Milano in realtà è molto più legata di quanto non si pensi alle emissioni obbligazionarie, ai prestiti richiesti dal Comune di Napoli. Poi vedremo perché e cercheremo di capire anche quale sia lo stato di salute del debito contratto dai nostri enti locali. Ancora, come primo tema d'apertura ci occuperemo delle previsioni dell'OCSE. Oggi l'OCSE ha stilato un rapporto dedicato all'Italia e purtroppo vede un PIL italiano in peggioramento rispetto alle ultime stime per il 2009, stabile quella leggera ripresa che dovrebbe arrivare nel 2010, però insomma alta disoccupazione, forti i timori, e cercheremo anche di capire che come si possa dire che da un lato il peggio è passato e dall'altro però avere stime così pesanti. 349-238-6666 per i vostri sms. Ancora cercheremo di parlare dell'America, dove oggi il segretario del Tesoro Timothy Geithner lancerà un insieme di misure, di regole, di norme più stringenti per i mercati, mentre dall'America sono usciti anche dati di carattere macroeconomico. Rapidamente le notizie in breve. Il petrolio, per fortuna, come sempre avviene quando le borse soffrono parecchio e l'euro scende, è in calo sotto i $70 al barile, a 69,3. Devo dire che c'è stato anche un dato sulle scorte settimanali di greggio americane che sono diminuite, quelle di petrolio più delle attese, ma le scorte di benzina sono aumentate più del previsto. e anche quelle di diesel e gasolio da riscaldamento, che vuol dire che si è consumata, detto banalmente, meno benzina, meno diesel, meno gasolio da riscaldamento delle attese, e allora il prezzo del petrolio ne prende atto e scende. Scende il prezzo del petrolio, ma riparte la corsa della benzina. In Italia la verde è 1,36 euro, sicuramente i petrolieri diranno che questi prezzi scontano le corse precedenti, attendiamo quindi i cali futuri. La verde è 1,36 euro, il gasolio è 1,16 euro. Avremo anche un riferimento nel parlare di America al vertice dei cosiddetti BRIC, ossia Brasile, Russia, India e Cina. Avete letto oggi sui giornali, vorrebbero diversificare le proprie riserve avendo meno dollari nelle in banca e anche nelle banche centrali, perché il ruolo del dollaro, hanno detto, è diventato problematico. Tra l'altro questa proposta ha trovato d'accordo oggi anche l'esponente della BCE portoghese, Victor Constanfio. Ancora Russia e Cina sono tornate sul tema e hanno risottolineato che vogliono favorire lo sviluppo di meccanismi in cui si usino più rubli e più yuan, quindi RMB, la valuta cinese, per i pagamenti nello scambio tra Russia e Cina, e meno dollari. Allora, la crisi di America parleremo fra un attimo, ma insomma è deflazione negli Stati Uniti. Perché? Perché l'andamento dei prezzi al consumo a maggio ha fatto un meno 1,3% rispetto a maggio del 2008. È il calo nei prezzi al consumo più forte dal 1950. Questo lo dico come ogni volta, perché quando si obietta come opinioni politiche non è la crisi, non c'è, la crisi è enfatizzata dai media, guardate i dati statistici, andiamo a vedere da quanto tempo non si vedevano dei numeri del genere, e stiamo tornando agli anni 70 e poi anche agli anni 60 e poi anche agli anni 50. In questo caso il costo della vita tra l'altro è calato, i prezzi del consumo sono calati molto più delle attese, maggior flessione quindi da quasi 60 anni su base mensile, cioè a maggio rispetto ad aprile. L'inflazione invece ha fatto un più 0,1%. Il dato che farò fa impressione è questo meno 1,3%, perché è una deflazione secca, vuol dire che il calo è stato netto nei prezzi al consumo americani. Nel frattempo, e qui veniamo all'Italia, le banche fanno notare come sono rallentati i prestiti bancari per via della fase di recessione, dicono le banche, noi abbiamo altre segnalazioni. Comunque, i prestiti bancari sono scesi, così come sono scesi per fortuna anche i tassi applicati sui nuovi mutui, tenendo conto sia dei fissi che dei variabili, sono scesi dal 4% al 3,81%. Questo è il tasso medio fisso variabile applicato ai nuovi mutui. Per quello che riguarda invece i prestiti alle imprese, so che questa cosa farà arrabbiare alcuni di voi, però secondo rapporto delle banche, il tasso medio, rapporto mensile dell'ABI, il tasso medio applicato ai nuovi prestiti alle imprese è sceso al 4,47% come interesse, il valore più basso mai raggiunto nella storia delle banche italiane. Un anno fa era quasi del 2% in più il costo per le imprese di un prestito bancario, in media era il 6,23%. Ed eccoli qua i messaggi di chi non si ritrova proprio in queste cifre. Io, ragazzi, vi sto dando la media diffusa dall'ABI, e poi ognuno faccia i conti con i suoi prestiti bancari, sia per il mutuo che per l'impresa. Ancora, non torno sulla commissione di affidamento, che è una forma di commissione di massimo scoperto, perché il presidente Fassolo dice che è assolutamente legittima, e va bene. Ultima notizia prima di passare al primo tema: in India la Fiat oggi ha lanciato, per la precisione, a New Delhi, la grande punto, per cui punta scusatemi il gioco di parole, ad incrementare le vendite, che a livello mondiale hanno già raggiunto 1.600.000 unità. Adesso primo tema, e mi riferisco chiaramente al rapporto dell'OCSE sull'Italia e questa stima che avremmo preferito non vedere di segno diverso. Eh sì, perché un po' di pazienza, al 349-238-6666, adesso ci arriviamo a tutti i temi. Dicevo, avremmo preferito vedere una stima diversa, perché oggi l'OCSE rivede al ribasso ulteriormente la crescita italiana, la recessione italiana per il 2009, meno 5,3% il nostro PIL quest'anno. Parla l'OCSE nel rapporto sull'Italia di ripresa molto lenta anche nel 2010, con appena uno 0,4%. Va detto che questo dato si confronta con il meno 4,2% previsto dal governo, e quindi insomma è ben diverso, e anche la Banca d'Italia a fine maggio aveva previsto fino a un meno 5%. Qui siamo già a un meno 5,3%, allora vediamo di parlarne direttamente con l'OCSE. Ci colleghiamo con Parigi nella persona del direttore del Dipartimento Statistico dell'OCSE, professor Enrico Giovannini. Buonasera. Buonasera. Quindi, secondo la vostra stima, il PIL italiano calerà di oltre un punto percentuale in più rispetto all'ultima stima del governo, meno 5,3 secondo voi, meno 4,2 secondo il governo, stima di aprile. Più simile invece quella poca ripresa che dovrebbe vedersi nel 2010, più 0,4 secondo voi, più 0,3 secondo il governo. Come mai una revisione in peggio delle vostre stime precedenti? La caduta della domanda mondiale ha certamente colpito l'Italia in maniera forse inattesa, più di quanto ci si aspettasse, ma anche la domanda interna è caduta violentemente, soprattutto gli investimenti. Il peggioramento delle prospettive economiche, soprattutto per quest'anno, ma come è stato ricordato anche nel medio termine, ha certamente bloccato i piani di investimento delle imprese, e questo ha innescato un meccanismo di caduta del reddito. Dobbiamo ricordare anche che la produzione industriale è caduta di circa il 25% rispetto all'anno scorso, un dato che veramente non ha precedenti. Quindi domanda estera, che poi si chiama export, caduta più delle attese, domanda interna, che poi si chiamano consumi, in calo più delle attese, ecco perché rivedete nettamente a ribasso il nostro PIL, meno 5,3%, il dato si fa pesante e si veniva da un dato già molto pesante. Sempre per quello che riguarda le stime, nel 2010 il nostro deficit dovrebbe essere al 6% del PIL, immagino senza manovra finanziaria, e il debito oltre il 115%? Sì, questo peggioramento è quasi unicamente dovuto alla caduta del reddito e naturalmente anche al funzionamento dei cosiddetti stabilizzatori automatici, cioè quelle spese come i sussidi di disoccupazione che scattano proprio quando c'è bisogno di sostenere il reddito. In realtà nelle nostre previsioni immaginiamo la realizzazione delle manovre già messe in campo dal governo e nel corso dell'ultima parte di quest'anno e, come è stato ricordato, all'inizio dell'anno prossimo, una leggera ripresa economica. Il fatto è che il debito naturalmente dipende dai deficit passati, e quindi la discesa del debito rispetto al PIL che si era osservata negli anni scorsi purtroppo si era già interrotta. Quindi in qualche modo la caduta del reddito mette benzina su un fuoco che era ancora abbastanza vivace. Mi faccia capire bene, quando voi dite che il nostro deficit andrà al 6%, che è una cifra altissima, ricordiamo che il limite di Maastricht è al 3%, Maastricht in questo momento non se lo fila nessuno nei vari paesi europei, però meno 6% senza tener conto della manovra finanziaria. Naturalmente, se il governo decide di intervenire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per in un modo o nell'altro, naturalmente questo non è attualmente compreso nelle previsioni, perché appunto non c'è ancora il disegno della manovra finanziaria per il 2010. Quindi in assenza di manovra andremo al 6% nel 2010 del deficit sul PIL e al 115% come debito sul PIL. Ultimo dato che voi avete diffuso oggi, la disoccupazione italiana, il rapporto, lo ricordavo, è dedicato all'Italia, toccherà il 10% nel 2009, è una cifra altissima visto che venivamo da disoccupazione in continuo calo negli ultimi 10 anni, vado a memoria, e che aveva toccato il 7-6-9%. le riforme che si sono succedute sul mercato del lavoro hanno certamente flessibilizzato, come si dice, il mercato del lavoro, e questo ha funzionato nella fase positiva, consentendo la creazione di diversi milioni di posti di lavoro, anche se alcuni di essi erano part-time, precari e così via. E naturalmente però la flessibilizzazione funziona soprattutto nel momento in cui c'è una violenta recessione come quella che stiamo vivendo. Questo vuol dire che il tasso di disoccupazione è destinato a crescere rapidamente, e questo sta avvenendo in tutti i paesi, sia in Europa che oltreoceano, e starà a questo punto agli interventi di politica e ai nuovi piani di produzione delle imprese e nuovi piani di investimento a ritirar su l'occupazione, ma certamente la gravità dell'aumento della disoccupazione farà sì che questa ripresa non potrà che essere molto lenta. Nel rapporto che noi stiamo preparando per la ministeriale, la riunione ministeriale che ci sarà nei prossimi giorni, si vede che purtroppo in molti paesi, una volta che una recessione ha portato in alto la disoccupazione, ci vuole molto tempo poi a riportarla in basso, e questa è una delle preoccupazioni che anche il governo italiano nel G8 sociale dell'inizio dell'anno ha sottolineato. Le misure, voi dite l'Italia vanno per ora, insomma, le misure anticrisi, nonostante il limitato spazio di manovra, vanno bene, quelle diciamo a breve. Nel lungo periodo servono riforme strutturali, quindi immagino pensioni, sanità, e anche voi chiedete le liberalizzazioni, di andare avanti con le liberalizzazioni, con una pubblica amministrazione più efficiente. Sono richieste identiche, devo dire, a quelle arrivate dalla Confindustria e anche dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Però voi riconoscete che con un debito che è altissimo, che pesa per 80 miliardi sul deficit e che comunque va al 115% del PIL, è lo spazio di manovra del governo italiano è molto molto basso, perché non è che puoi spendere con il debito che ti ritrovi. E allora come si tengono assieme le due cose? C'è la necessità di fare, di compiere misure strutturali con il debito che abbiamo. L'idea delle misure strutturali non è nuova, e credo che gli ascoltatori di Radio 24 si siano anche un po' annoiati di sentire questa cantilena ripetuta così spesso. Dobbiamo ricordare che prima di questa crisi l'Italia veniva comunque da una crescita economica molto contenuta e soprattutto una crescita della produttività quasi nulla, al contrario di quello che era avvenuto negli altri paesi. Questo è un meccanismo fondamentale per la crescita di medio-lungo periodo. Quindi il tema di accrescere la produttività attraverso riforme è molto importante anche in questo momento. Bisogna ricordare che alcune di queste riforme strutturali hanno un costo molto limitato. Noi parliamo per esempio della liberalizzazione dei mercati dei servizi e così via. Abbiamo un'opportunità grande, l'Istat ha pubblicato proprio ieri questa conferma di un dato sull'inflazione bassissimo, il più basso dagli anni 60. Dobbiamo evitare che nel momento in cui la ripresa possa rimettere domanda e produzione in circolo, l'inflazione riparta, perché altrimenti questo penalizzerebbe ulteriormente i redditi bassi e in particolare chi ha perso il lavoro. Ecco dove le riforme, per esempio sulla liberalizzazione dei mercati dei servizi, possono aiutare a liberare risorse produttive, a tenere bassa l'inflazione e quindi a consentire una ripresa di quello che si chiama il reddito potenziale di lungo periodo. La riforma della pubblica amministrazione va anche in questa direzione, ed è particolarmente importante in un momento in cui un paese che sta invecchiando, che ha problemi strutturali, diciamo così, di carattere demografico, ha i servizi pubblici in un luogo cruciale per assicurare il benessere dei cittadini, in particolare delle fasce meno abbienti. E se non si guadagnano produttività e efficienza nel far questo, purtroppo, visto il debito che c'è, sarà molto difficile aumentare la quantità di servizi se non attraverso appunto un aumento della loro efficienza. Chiarissimo questo ragionamento, dottor Giovannini. Adesso abbiamo il meteo e la pubblicità, poi vorrei capire come si tengono assieme cose che insomma sembrano abbastanza discordanti, cioè da un lato stime che voi, perfino voi, anche voi rivedete al ribasso, e poi invece dichiarazioni, il peggio alle spalle, abbiamo evitato il peggio, lo scenario è in miglioramento. Uno resta un po' disorientato se da un lato vede la Banca Centrale prevedere 280 miliardi di euro di perdite per le banche, dall'altro però sente che il peggio è alle spalle, che ci sono i segnali che la situazione sta migliorando, non si sa più come comportarsi, che cosa dire. Do invece un rapidissimo aggiornamento sulle borse: meno 3% la chiusura finale, leggermente meglio Milano delle previsioni, di come non facesse circa alla fine un'ora fa, così come migliorata anche Francoforte, meno 1,6, e anche Londra meno 1,3%. Certo, il calo resta pesante soprattutto per i bancari, ma anche per Tenaris e Prismian. A chi ci chiede se la previsione dell'OCSE di un più 0,4% nel PIL italiano l'anno prossimo è riferita al 2009, certo, è sempre riferita all'ultimo anno, per cui se tu sei sceso, diciamo, da 100 a 95, il più 0,4 è calcolato sul 95. E lì forse arriva anche la risposta alla mia prossima domanda. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento sulle stime diffuse oggi dall'OCSE sul nostro paese. Ne stiamo parlando in collegamento con Parigi con il direttore del Dipartimento Statistico dell'OCSE, Enrico Giovannini. Ancora vedo molte domande sull'affidabilità di queste stime. Cioè, è chiaro che si naviga a vista anche negli istituti di ricerca, negli osservatori, ma traggo spunto da molte domande su questo tema che arrivano al 349-238-6666 per chiederle questo, dottor Giovannini. Allora, da un lato voi avete visto nettamente in peggioramento il PIL italiano, meno 5,3, disoccupazione si diceva al 10%, deficit senza manovra al 6%, debito al 115%, insomma è un massacro. Dall'altro però anche voi, ma non solo voi, la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario, la Commissione Europea, continuate a dire beh, il peggio è passato, la caduta è rallentata, si vede qualche segnale, e allora io non capisco più niente. Cioè, non vorrei che ci si stesse concentrando un po' troppo sui decimali, il meno 0,1, il più 0,4%. Questo è esattamente il punto su cui l'opinione pubblica si deve concentrare. Questa recessione è dura, è stata la più dura dal dopoguerra. Quando faremo i conti finali, certamente la ricorderemo in questo modo per molto tempo. Il fatto che nel 2010 l'economia possa ricominciare a crescere non vuol dire che in pochi mesi si recupererà tutto il terreno perduto. Purtroppo non sarà così. E la competizione tra i paesi per guadagnare quel po' di domanda aggiuntiva che comincerà a vedersi, speriamo a fine anno, all'inizio del 2010, sarà molto forte. Aver perso il 25% in termini di livello della produzione industriale o aver perso il 5% di reddito in un anno in termini di prodotto interno lordo vuol dire anche che l'apparato produttivo è sottoposto a uno stress talmente forte che non è in grado di ripartire immediatamente, non è in grado di recuperare queste perdite nel giro di pochi mesi, neanche di un anno e forse di due anni. Ecco dove il quadro si tiene insieme, perché gli effetti anche sociali, direi soprattutto sociali di questa recessione, ce li porteremo dietro anche dopo che il PIL avrà ricominciato a crescere. C'è sempre un ritardo tra la produzione e la disoccupazione, per esempio. Se anche la produzione riprende, la disoccupazione scenderà con maggiore lentezza ed è lì dove la competizione di medio e lungo termine diventa più dura ed è lì dove gli interventi non solo governativi ma anche degli imprenditori e delle parti sociali diventano fondamentali per agganciare questa ripresa in condizioni migliori di come abbiamo trovato la recessione al momento in cui è scoppiata. Quindi, se ho ben capito, usando un esempio che ogni tanto facciamo del malato, se uno ha avuto una febbre che è salita prima a 40, poi a 41, poi a 42 con il rischio convulsioni, Se poi questa febbre si assesta a 42, inizia un po' a scendere e va magari appunto torna a 41, si dice, è corretto dire che il malato non rischia più le convulsioni, quindi insomma la situazione più drammatica, più esiziale. Però diciamo, se tu sei arrivato a una febbre a 42, tornare a 36,5, 36,8 ci mette del tempo, e anche diciamo, una discesa a 41 ti lascia in una condizione di estrema debolezza e di altissima febbre, no? Per cui, se ho ben capito, le due cose si tengono assieme in questo modo, cioè è corretto dire che il paziente sta migliorando, ma non è corretto dire che il paziente sia in salute. Possiamo usare questa diciamo sintesi? Che noi ci aspettiamo che il paziente migliorerà nei prossimi mesi, perché siamo ancora diciamo nella fase acuta della febbre, però la ripresa sarà lunga e penosa da un certo punto di vista. Il senso di spossatezza a cui faceva riferimento è un buon parallelo, e che proprio per questo si tratta di fare una dieta adeguata in modo da rinforzare le capacità dell'organismo a evitare ricadute. Si tratta di avere una cura che in qualche modo prepari alla ripresa complessiva del paziente, e bisogna avere anche un po' di pazienza da questo punto di vista, perché non sarà una crisi cosiddetta L, cioè la caduta e poi si resta in basso per molto tempo, ma non è neanche una crisi a V, con una veloce caduta e una veloce ripresa. Saremo in una situazione un po' intermedia. Temete anche voi quello che è un timore molto presente in Confindustria e anche palesato dalla Presidente Marcegaglia, ma molto presente anche diciamo off records in Confindustria, fuori diciamo dalle dichiarazioni ufficiali, che interi settori produttivi possono poi non essere più presenti quando arriverà la ripresa, e cioè che molte imprese preferiscono tirare remi in barca o chiudere piuttosto che fallire, che insomma l'Italia per colpa di questa febbre fortissima, di questa malattia fortissima, poi si ripresenti con pezzi del sistema, pezzi dell'organismo che non ci sono più. Questo è un rischio possibile dovuto anche alla particolare struttura per età dei nostri imprenditori. Il paese non invecchia soltanto in generale, ma invecchia anche in termini di età media degli imprenditori, e quindi da informazioni di carattere aneddotico al momento sembra essere vero che alcuni imprenditori che avrebbero avuto ancora 3-4 anni davanti tendono a chiudere la loro impresa perché non vogliono andare avanti e ritengono che questo sia il momento giusto per farlo. Dobbiamo però anche ricordare che molte delle imprese che oggi fanno la nostra vita, penso a Microsoft o ad altre imprese della cosiddetta New Economy di qualche anno fa, sono nate proprio nel momento della recessione più pesante. E quindi le recessioni sono sempre anche un'opportunità per nuove idee e nuovi rilanci. Da questo punto di vista, il rapporto che abbiamo presentato oggi segnala la necessità di investimenti sul capitale umano, sulla scuola in primo luogo, ma anche sull'università, in modo tale da migliorare la capacità dei nostri giovani a fronteggiare queste sfide, anche quelle di carattere imprenditoriale. Beh, io credo che tra le politiche strutturali di cui abbiamo parlato prima, incentivi alla creazione di nuove imprese, nuove idee e così via possono in qualche modo aiutare ad agganciare non solo la ripresa, ma eventualmente a porre delle nuove basi per il sistema produttivo italiano dei prossimi 20-30 anni. Quindi, se ho ben capito, incentivi immagino fiscali per la creazione di nuove imprese, per le start-up, come si chiamavano una volta, di credito, quindi le banche aprissero anche le linee di credito alle idee e ai progetti, valutandoli, ci mancherebbe, nessuno chiede di fare beneficenza, ma insomma li valutassero e poi decidessero che cosa finanziare. È una pubblica amministrazione che possa aiutare e non essere pesante nei confronti delle nuove imprese. Anche questo non è un argomento esattamente nuovo. E poi immagino siete d'accordo anche con la proposta arrivata sempre da Confindustria di una Tremonti bis, quindi il reinvestimento degli utili, mi scusi, detassazione parziale degli utili investiti. il tutto per cercare di arrivare con un paese, diciamo, non sfibrato da questa crisi. Lei, ragionando di scuola, ragiona su un periodo di tempo di qualche anno. La Marcegaglia però ha chiesto 100 giorni al governo. Ecco, vorrei capire, lei ritiene che i 100 giorni, cioè i 3 mesi, che poi vogliono dire da settembre in poi, da quando si ritornerà dalle ferie e le fabbriche riapriranno, siano un tempo cruciale, un tempo, diciamo, un conto alla rovescia per capire poi come il paese, per avere misure a favore delle imprese nel paese? Certamente i prossimi 100 giorni, come qualsiasi 100 giorni di un paese, di un governo, sono importanti, non c'è tempo da perdere. Però il rapporto che abbiamo presentato oggi mostra, come abbiamo spesso sottolineato anche nel passato, che alcuni problemi sono di medio termine, che non si risolvono in 100 giorni e purtroppo non si risolvono neanche in pochi mesi. Investire sulla scuola dà un rendimento a medio termine. Investire sul capitale umano, investire sull'innovazione dà rendimenti nel medio termine. Il fatto che ci sia un'emergenza non può far dimenticare che la crescita di medio e lungo termine dipende da questi altri aspetti. Un paese che, come abbiamo detto tante volte, invecchia ha bisogno di risorse aggiuntive per poter sostenere la previdenza, la sanità e così via, e tutto questo può venire soltanto da un paese che ha un tasso di crescita della produttività alto, che quindi riesce a mettere un po' da parte ogni volta che produce e non semplicemente esaurisce le dotazioni che ha, e un investimento sulle nuove generazioni che sono quelle destinate a sostenere welfare nei prossimi 20 anni. Ecco, concentrarsi sul breve non può voler dire dimenticare questi elementi di medio termine, che magari sono meno appariscenti, ma che fanno la differenza per il benessere di una società. Grazie, grazie al direttore del Dipartimento Statistico dell'OCSE, Enrico Giovannini, in collegamento con noi dalla sede dell'OCSE di Parigi. Grazie a voi. E adesso un po' di risposte di SMS e poi introduciamo anche la pagina di borsa. Concordo con molti ascoltatori, la situazione, allora, parliamoci chiaro, se i dati così non si sono mai visti in America, la deflazione del 1950, in Italia dagli anni 70, è chiaro che nessuno ha le risposte certe, è anche giusto non averle, è una missione di onestà intellettuale, per cui si naviga un po' a vista e si cerca di capire come tenere assieme un miglioramento di una situazione a fronte però di una crisi che ci ha portato a livelli bassissimi. Poi c'è sempre qualcuno che ha voglia di buttarla in politica, ma ormai ci siamo abituati, comunisti da una parte, citate dei comunisti, dall'altra dei filogovernativi. Non si riesce a ragionare sui numeri, attenzione, è molto pericoloso il gioco di dare un colore politico alla crisi, sarebbe meglio concentrarsi sulle misure, capire che i 100 giorni o 120 o 90, non mi interessa, sono importanti, che il vero problema sarà alla riapertura delle fabbriche da settembre-ottobre in poi. Se non ci credete, chiedete ai vostri amici imprenditori, avrete qualche imprenditore, qualche commerciante, qualche artigiano che conoscete. Ancora, alcuni di voi dicono fate parlare anche i piccoli. Vi ho promesso e le promesse le mantengo che avremo un'intera puntata dedicata ai problemi dei piccoli imprenditori, degli artigiani con le banche, ma non solo, e stiamo concludendo la raccolta delle decine di mail che sono arrivate. L'ascoltatore che ce lo chiede, che vuole partecipare, ci scrivesse e avremo anche testimonianze dirette. Ancora, alcuni dicono che c'è troppa euforia per la ripresa della borsa, forse è vero, sicuramente oggi l'euforia non si è vista sui mercati, non si è vista in generale in Europa, dove Parigi ha perso l'1,6%, Francoforte l'1,80%, Londra ha perso l'1,21% e soprattutto non si è vista Milano, dove l'indice FTSE MIB ha perso il 3%. Ancora effetto previsione della Banca Centrale Europea sulle banche, UbiBanca meno 7%, Unicredit meno 6,4%, Banco Popolare meno 5,1%, Mediolanum meno 4,80%, come Mediobanca, Popolare di Milano meno 4,5%, Unipol meno 3,5%, Monte dei Paschi meno 3% e ancora Generali meno 2,6%. La peggiore però è Prismian, meno 8,90%, Tenaris meno 6,91%, male anche Saipem meno 5,5% e Impregilo e Buzzi Unice meno 4,90%. Direi che l'unica notizia buona di oggi è il prezzo del petrolio, che a fronte di borse così in calo, di un euro in indebolimento, è sceso anch'esso sotto i $70 al barile a 69,5. Allora, la giornata di borsa pesantina, devo dire, già si era capito lunedì che i mercati erano orientati più a vendere che a comprare e tra l'altro lo si era capito dopo le indicazioni arrivate dalla Banca Centrale Europea. Io devo dire che sono rimasto molto sorpreso quando ho visto lunedì la Banca Centrale Europea con tanta nonchalance dire che complessivamente le banche europee potrebbero avere perdite per 283 miliardi di euro, come se fossero 2,8 miliardi, no, sono 283. Immaginabile la reazione dei mercati, anche perché in quella nota, poi noi avremmo forse dati imprecisi, ma non si capiva bene sulla base di quali calcoli la Banca Centrale Europea, che è la banca delle banche centrali, quindi la banca delle banche dell'area euro, stimasse una cifra così stratosferica nelle perdite, visto che molte perdite già le hanno avute. Comunque, non sarà un caso quindi che perdono di più le banche, perché UbiBanca è la peggiore, meno 7%, assieme a Prismian meno 8,90%. La domanda che giro a Eleonora Micheli, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a tutti. Sì, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, una correzione era da mettere evidentemente in conto. Piazza Affari ha fatto peggio, ma era anche quella che ha fatto meglio. L'indice FTSE All Share dal 10 marzo alla scorsa settimana ha guadagnato il 60% contro un'economia che comunque stenta a dare segnali di miglioramento effettivo e di ripresa. Quindi, come dicono gli operatori e come dicono gli esperti, una correzione era assolutamente da mettere in conto. Si vanno a vendere i titoli bancari perché sono quelli che ovviamente hanno corso di più, soprattutto a Milano. Milano è andata peggio, quindi proprio per l'effetto, diciamo, delle banche. Peraltro, a incoraggiare appunto le vendite sulle banche anche la prospettiva, come hai citato tu, del monito della BCE, e più anche oltreoceano la situazione non è migliore. Proprio oggi Standard & Poor's ha annunciato di aver visto al ribasso i giudizi e le prospettive su ben 22 banche regionali. E si svegliano anche le agenzie di rating. Va bene, allora lo dico a chi sta scrivendo al 349-238-6666. Da più parti ci si attendeva quella che si chiama correzione. Ossia, dopo che le borse avevano fatto un più 40, più 50 dai minimi dell'8 marzo, era ovvio che molti operatori potessero aver voglia di vendere prima di andare in vacanza. Più fly to holidays che fly to quality. Però poi si cerca anche di capire oggettivamente perché rispetto a un meno 3% alcuni titoli perdono così tanto. Prismian? Prismian, guarda, va detto che sono andate male le banche, ma anche, diciamo, le azioni delle aziende che sono maggiormente legate al ciclo, proprio perché tutto sommato non c'è ancora ripresa. Come hai detto tu, anche negli Stati Uniti l'indice dei prezzi non succedeva dal 1950 che perdesse su base annua all'1,3%. Cioè deflazione pura negli Stati Uniti. Vabbè, sarà però in America invece il Dow Jones è fermo, meno 0,1%. Io non capisco perché le notizie americane dobbiamo sempre scontarle noi in Europa. Vabbè. No, d'altra parte è vero anche che il FTSE All Share ha guadagnato il 60%, sì, sì, mentre il Dow Jones ha guadagnato il 35%. E quindi ci sta un po' più di correzione da noi. Andiamo avanti sui singoli casi, perché tra chi si è salvato, visto che qualcuno dice ma date solo i titoli che perdono, beh, se l'80% dei titoli oggi perdono, diamo quelli. Volete sapere chi non ha perso nel... tra i titoli di maggiore capitalizzazione sono solo 4: Finmeccanica più 1,5, Bulgari più 1,2, Luxottica più 0,7, Terna più 0,4. Fine. Finmeccanica e Bulgari. Guarda, per quanto riguarda Bulgari c'è una raccomandazione positiva di una banca d'affari, si tratta di Exam BNP Paribas, che ha rivisto appunto il giudizio da underperform a outperform e conseguentemente appunto i titoli ne hanno beneficiato. Su Finmeccanica in questi giorni stanno uscendo molte notizie, oggi in particolare i titoli hanno festeggiato in borsa il fatto che la controllata americana DRS ha vinto un contratto da 43,9 milioni di dollari e poi al tempo stesso Selex si è aggiudicato un altro contratto da 11,6 milioni di dollari. Quindi anche notizie che arrivano non solo dal Salone dell'Aeronautica di Le Bourget. Andiamo avanti con i titoli di Finmeccanica e Bulgari, abbiamo detto. Mediolanum in realtà aveva avuto una giornata abbastanza buona, anche perché c'erano state dichiarazioni di Ennio Doris sul semestre positivo, sull'andamento del nuovo piano, del nuovo prodotto a rendimento netto garantito. Poi... Sì, poi invece ha girato, i titoli hanno registrato una perdita consistente, meno 4,8% insieme a tutto il comparto un po' delle banche, nel comparto finanziario. D'altra parte il segnale che oggi ha dato Ennio Doris è stato assolutamente positivo, l'imprenditore prevede che il primo semestre 2009 risulti migliore di quello del 2008. Dell'ultimo semestre 2008 o del primo semestre 2008? No, del primo semestre. Perfetto. 2008. Ancora sui titoli, devo dire che Geox in Altalena, nonostante le indiscrezioni di stampa oggi di un interesse di Mario Moretti Polegato per comprare il marchio di Adora. Sì, esatto, ci si interroga infatti su questa operazione, in verità non verrebbe effettuata da Geox ma da una finanziaria che è in mano direttamente a... Polegato, d'altra parte c'è chi magari inizia a domandarsi se ci siano eventuali sinergie, comunque Geox è tenuta sotto controllo, anche se sul finale ha perso il 2,8%. Allora, da questi cali non si sono salvati nemmeno gli energetici, anche perché il petrolio oggi si è indebolito, A2A perde il 3,3%, mentre Eni l'1,5%, adesso vi trovo Enel e ve la do se riesco, eccola qua, meno 0,5 Enel. Mentre Ansaldo perde, STS perde l'1,1%, cito ancora tra i titoli, oltre Monte dei Paschi abbiamo detto meno 3% e Fiat meno 2,80%, scende a 7,1 euro per azione, quindi la settimana non è certo di quella da ricordare per Fiat in borsa. Ancora i migliori e i peggiori e concludo. Investimenti e sviluppo più 5%, poi poco altro, Vivendi più 2,6%, Pirelli Real Estate realizza, dopo che il titolo ha fatto più 100% un giorno, più 50% un altro giorno, meno 14%, ci stanno tutti, le Camfin meno 11,70%, altro titolo molto comprato dopo l'ingresso nel capitale. E 10 minuti, inizia la seconda parte di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, dopo aver commentato le previsioni decisamente negative dell'Ocse e poi la giornata di borsa, oggi sarebbe veramente da gufo la puntata, perché la giornata di borsa meno 3,1% nel finale l'indice milanese, peggio quasi il doppio come calo rispetto agli altri indici. Adesso ci occupiamo di altri due temi. Uno riguarda gli Stati Uniti e mi riferisco alla notizia che l'America a maggio è stata in deflazione, ossia i prezzi al consumo sono calati invece che crescere, meno 1,3% è il calo più forte dal 1950. Questo nel giorno in cui arriveranno proposte dal presidente Obama, ma non solo, anche dal segretario del Tesoro Timothy Geithner, di nuove regole per i nuovi superpoteri per la Federal Reserve, una nuova ridistribuzione dei poteri nei controllori dei mercati finanziari. E dicevo, prima di arrivare a questo ci occupiamo sempre di finanza, sempre di conti, però i conti nostri, anzi i conti dei nostri enti locali. È sì, perché oggi sul Sole 24 Ore c'è un'inchiesta che è stranissima all'inizio quando uno la guarda. Cioè, vabbè, sappiamo tutti che gli enti locali italiani, ahimè, spesso si sono così inventati una carriera di esperti di finanza e hanno sottoscritto, nel periodo in cui andavano più di moda, i prodotti derivati, chiamiamoli in gergo così, cioè prodotti a alta leva, prodotti molto rischiosi, tant'è che il solo comune di Milano ha un'esposizione intorno ai 200 milioni di euro e c'è una causa in corso perché si dice che i banchieri che gli hanno venduti non gli hanno spiegato i rischi, insomma hanno giocato col fuoco, hanno fatto un po' gli apprendisti stregoni, e questo già lo sapevamo. Il problema, o meglio quello che scopre oggi il Sole 24 Ore, è che il rischio dei derivati comprati dagli enti locali, quindi da tutti noi a seconda di dove abitiamo, è una vera e propria catena di Sant'Antonio, come dicono in francese tout s'étient, cioè il rischio delle obbligazioni o dei prodotti emessi dal comune di Milano è legato diciamo, all'andamento e alla affidabilità dei titoli emessi, non so, in Sicilia, in Lazio, in Grecia. Allora, siccome la cosa detta così sembra surreale, abbiamo invitato oggi la sua giornata Radio 24, era già presente questa mattina a Salvadanaio, ma abbiamo invitato Moria Longo del Sole 24 Ore. Buonasera Moria. Buonasera a voi. Autore dell'inchiesta, perché con tutte le difficoltà che può rappresentare la radio per spiegare un meccanismo così complicato, ci aiutasse a capire come mai il rischio sull'emissione di un prodotto ad alta leva fatto magari in Lombardia è collegato a quello che capita in Lazio, in Sicilia o addirittura in Grecia. Allora, la cosa è anche meno complicata di quanto possa sembrare. Diciamo che la mia inchiesta riguardava soprattutto la regione Lombardia, che ha emesso un prestito obbligazionario, quindi si è indebitata nel 2002. Cosa ha fatto la regione Lombardia? Si è indebitata per 30 anni, vuol dire che da 30 anni dovrà ridare i soldi agli investitori. La legge prevede però che se un ente locale si indebita a così lunga scadenza, deve ovviamente mettere da parte i soldi cammin facendo, perché sennò si trova, diciamo, nel 2032. Cioè non è che fra 30 anni apri il tesoretto. Ecco, bravo, per non lasciare ovviamente alle generazioni future l'onere di rimborsare. Il sospetto in questo paese è sempre presente. E allora cosa fanno gli enti locali? Per rispettare questa legge iniziano ad accantonare piano piano i soldi nell'arco appunto di questi 30 anni. Cosa fanno? Fanno un derivato con le banche, cioè dicono alle banche: io vi do nell'arco di 30 anni i soldi e voi tra 30 anni me li ridate indietro per rimborsare gli obbligazionisti. Cosa fanno però le banche? Le banche questi soldi ovviamente non li tengono sotto un materasso, ma li investono. Quindi li mettono in un sinking fund, cioè un fondo, un grosso salvadanaio, diciamo, che compra altre obbligazioni. La cosa curiosa che appunto ho scoperto con alcuni documenti è che comprano obbligazioni di altre regioni o enti locali comuni italiani. Quindi cosa vuol dire? Che per esempio se dovesse fallire la regione Sicilia, la regione Lombardia avrebbe grossissimi problemi di rimborso del suo debito. Stesso vale per il Lazio. Nel sinking fund della regione Lombardia c'è per esempio il bond di Telecom Italia trentennale. Se Telecom Italia avesse problemi, sarebbe la regione Lombardia ad avere a sua questo volta questo lo problemi. Sa la regione Lombardia o la regione Lazio, cioè è ben presente, perché spesso la regione Lombardia lo sa oggi, nel momento in cui ha fatto questo prodotto sapeva quali titoli si potevano comprare, ma non sapeva quali titoli poi le banche effettivamente avrebbero comprato. Diciamo che la logica di questa cosa è far sì che il rischio della regione Lombardia sia diversificato. Beh, diversificare il rischio della regione Lombardia, diciamo, investendo sulle obbligazioni della regione Sicilia, adesso io sorrido senza nessuna offesa per i siciliani, ma insomma una regione che ha il debito e il buco che ha la regione Sicilia non mi rappresenta, cioè, sarebbe come se io per cautelarmi sul rischio, diciamo, di un investimento andassi a comprare in questo momento, che ne so, un'obbligazione islandese o lettone, sarei un po' sì, folle. Sì, diciamo che la regione Sicilia però è garantita comunque dallo Stato. Tutti siamo garantiti dallo Stato, sì. Anche la regione Lombardia, cioè Pantalone paga sempre, ecco, ma il punto non è questo, Mori, è un altro. Allora, andiamo con ordine perché ho bisogno di capire anch'io. In sostanza, gli enti locali, poniamo la regione Lombardia perché l'abbiamo usata come esempio, ma vale anche per altri, hanno emesso delle obbligazioni, cioè hanno chiesto dei prestiti sul mercato, come fa un'obbligazione qualunque, e devono ripagarla fra 30 anni, come è un'obbligazione a scadenza che può essere decennale, ventennale, trentennale. Nel frattempo, siccome questi soldi non è che li puoi avere tutti fra 30 anni in una botta sola, lì iniziano a accumulare un piccolo capitale in modo da poter ripagare fra 30 anni. Come fanno? E qui arriva la genialata, investendo in prodotti derivati, cioè i prodotti che sono stati il bubbone della peste finanziaria che si è abbattuta sui mercati nell'ultimo anno. Prodotti derivati, prodotti a leva, e prodotti che in qualche modo derivano da qualcos'altro, quindi hanno un'alta volatilità, cioè un alto effetto rischio, alti guadagni o alte perdite. Questi derivati vengono, a questo punto, sottoscritti dall'ente locale della Regione Lombardia, e il sottostante da che cosa è rappresentato? Da un paniere di altre obbligazioni. Esattamente. Per cui non so, se è una leva 1 a 10, poniamo. Sì, in questo caso una leva non ci sono tanti derivati con leva. Questo sono derivati senza leva, perfetto, sono derivati senza leva. Però investi sulla regione e hai un paniere di obbligazioni. La cosa interessante è che queste obbligazioni, invece che essere, che ne so, Deutsche Telekom, Microsoft, Eni, visto che c'è appena stata l'emissione, è in corso l'emissione, sono delle volte anche altre obbligazioni di altri enti locali. A sto punto faceva prima la Regione Lombardia a chiedere i soldi alla Regione Sicilia e ridarli fra 30 anni ai cittadini lombardi. Di nuovo in diretta, non vi dico i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Allora, sì, alcuni suggeriscono di comprarsi a vicenda Sicilia e Lombardia. Sembra un po' il gioco delle tre carte, io presto 100 milioni a te, tu a quel punto presti 100 milioni a me, vabbè. Andiamo invece su, sono cose serissime purtroppo, ripetiamo il meccanismo. La regione, in questo caso Lombardia, ma usiamo la Lombardia solo perché è il caso oggi presente su Sole 24 Ore, emette 1 miliardo di prestito obbligazionario, cioè chiede sul mercato 1 miliardo di euro in cambio da delle obbligazioni che la obbligano a ritornare questi soldi fra 30 anni. Questo funziona per qualunque obbligazione al mondo. Siccome però i soldi non li può avere tutti subito tra 30, tutti in una volta tra 30 anni, inizia a accantonare di questo miliardo alcuni soldi, magari all'inizio 100 milioni, li investe in modo che formino rendimento da mettere da parte, così fra 30 anni, quando sarà il momento di ripagare, la sto semplificando un po', ma voglio arrivare al punto, quando sarà il momento di ripagare avrà messo da parte il miliardo e gli interessi dovuti su questo miliardo, perché si pagano interessi. Come e dove investe? Da mandato alle banche, magari con uno strumento derivato. Quindi poniamo con l'esempio, da 100 milioni alle banche, dice fatemi fruttare questi soldi perché li devo mettere da parte per ripagare. Adesso vedo che Moria scuote un po' la testa per le mie imprecisioni, adesso ti faccio correggere, però dai 100 milioni alle banche e fateli fruttare. Le banche a questo punto dove li hanno investiti? Li hanno investiti in un paniere di obbligazioni. Qui lo strumento non è un derivato classico, più uno swap, vabbè, non andiamo nel tecnico. Le banche a loro volta li hanno investiti in un paniere di obbligazioni, dove si scopre che tra queste obbligazioni ci sono obbligazioni della Grecia, obbligazioni di Telecom, obbligazioni della Regione Sicilia. Manca solo, Moria, che ci fossero le obbligazioni stesse della Regione Lombardia, diventava il giro della morte a questo punto, perché ricorda più Totò che non, diciamo, la finanza creativa, perché... Vabbè, mi viene da ridere perché non voglio piangere. Dov'è la mia inesattezza, visto che scuotevi pesantemente la testa? No, semplicemente la cosa, è come l'hai detto tu, però l'inesattezza era questa. La regione non dà i soldi alle banche perché loro glieli investano e gli diano quindi il rendimento. La regione dà i soldi alle banche, ma le banche gli danno solo il miliardo che lei stessa ha raccolto. Certo. Se le banche le investono e hanno un rendimento, il rendimento lo prendono le banche, non lo prende la regione. Sì, ma questo... Però se va in default un bond su cui loro investono, la perdita la prende la regione, non le banche. Quindi questi fondi hanno una sorta di doppia personalità. I rischi sono della regione, i guadagni sono delle banche. Una volta si diceva capitalizzare i profitti, socializzare le perdite, oppure possiamo dire deboli con i forti e forti con i deboli, va bene. Bello strumento, complimenti agli enti locali che l'hanno utilizzato e alle banche. Ripeto, che hanno saputo una vendere. Piccola precisazione, era tutto previsto dalla legge. No, è tutto previsto dalla legge, il tema è... E veniamo alla parte più dolente e delicata. Quanto a questo punto interrelati e correlati sono questi bond? Perché voglio dire, noi parliamo di federalismo fiscale. Se poi io scopro che la regione Veneto, così cambio regione, o Emilia Romagna, emette un'obbligazione perché vuole fare un'opera importante, ha bisogno di soldi e giustamente emette 1 miliardo di euro di titoli targati Regione Veneto, regione affidabile, ricca, come l'Emilia Romagna... Per cautelarsi su questo miliardo che dovrà ridare fra 30 anni, dà dei soldi alle banche che iniziano a investirli e siano in grado di ridare questi soldi alla Regione Veneto, che poi li deve ridare a noi cittadini che abbiamo comprato queste obbligazioni. Se scopro che però le banche investono sulle obbligazioni della Regione Campania, della Grecia, del Portogallo, ma restiamo in Italia, della Sicilia, è chiaro che il federalismo fiscale non sta in piedi, perché poi se ha un problema di default, cioè di, la Regione Sicilia non riesce più a ripagare i debitori, salta per aria anche parte del debito della Regione Veneto. Esattamente, sì. In teoria la Regione Lombardia, che ieri ho chiamato, loro sono tranquilli perché dicono ma no, non vanno in default, le regioni sono comunque garantite dallo Stato, eccetera, eccetera. Per cui non c'è un allarme default, diciamo questo. Però in via teorica sì, cioè si rischia che se una regione avesse problemi, a catena saltano anche altre. Quindi in questo senso abbiamo parlato di catena di Sant'Antonio, tipo un domino quasi, e questo è l'effetto paradossale poi di questo, di questi piani di ammortamento. Io vorrei suggerire a questo punto veramente l'ipotesi che la regione mette un'obbligazione, poi va dalla banca e dà dei soldi perché la faccia fruttare, e la banca investe sulle obbligazioni che ha messo la regione stessa. Quello sarebbe così, autofinanziamento. Tutto, autofinanziamento, o se no si prestassero i soldi tra Lombardo e Formigoni in questo caso, e facciamo prima senza tante commissioni bancarie. Grazie Mario Longo, grazie a voi. Abbiamo un po' sorriso, perché delle volte la finanza creativa sembra più finanza crea qualcos'altro. Adesso però l'ultimo tema, rapidissimi, la deflazione americana, così si conclude in bellezza. Sì, sì, vabbè, lo so, vedo molti commenti. Ne parleremo ancora in un'altra occasione, e vedremo anche gli sviluppi. Vorrei collegarmi rapidamente con New York, dove c'è Marco Valsania, uno dei corrispondenti del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Per commentare rapidamente questa deflazione americana, perché l'indice ha sorpreso tutti, meno 1,3% i prezzi in America maggio su maggio 2008, un più 0,1 maggio su aprile, un po' attesa lo era... Però insomma è dal 1950 che i prezzi non calano in questo modo. Sì, e ha sicuramente rilanciato la discussione sul problema, siamo davanti a un rischio inflazione o rischio deflazione. In realtà entrambi i rischi potrebbero in questo momento non esserci. Sicuramente l'inflazione è del tutto sotto controllo, ma anche la paura di una deflazione che potrebbe essere suggerita dal dato che ricordavi tu, cioè dal calo anno su anno dell'1,3%, in realtà potrebbe rientrare se come pare, diciamo, la pressione dei prezzi dell'energia continuerà a farsi sentire come recentemente si è fatta sentire, riportando nella seconda parte dell'anno a una maggiore così consistenza di aumenti negli aumenti dei prezzi. Tra l'altro il core index, quindi il dato depurato dai prezzi energetici e alimentari volatili, nell'ultimo anno in realtà è aumentato dell'1,8%, quindi relativamente in linea con quelle che sono le preferenze della Fed, insomma l'idea che l'inflazione debba marciare, diciamo, a un passo intorno al 2%. Marco, in una battuta, perché siamo in conclusione, si sa nulla già al di là di quello che è già uscito del piano di nuove regole? Abbiamo letto sui giornali in questi giorni come la Federal Reserve avrà regole più, poteri più stringenti, la SEC controllerà anche soggetti che operano sui mercati a maggior rischio, leva, derivati e quant'altro. Ci sono altre novità sulle nuove regole che Barack Obama da un lato e Timothy Geithner dall'altro annunceranno? La sostanza è quella che ricordavi tu: nuovi poteri alla Federal Reserve, nuovi poteri alla SEC, soprattutto sugli hedge fund, nuovi limiti al rischio e soprattutto una nuova anche agenzia di difesa dei consumatori sul fronte mutui, carte di credito, dove si sono verificati abusi. Ecco, c'è un tentativo, quello che si può dire, nella bozza che a questo punto è stata resa nota questa mattina, una bozza di 85 pagine, un tentativo di tenere in equilibrio da una parte una stretta nelle regole, dall'altra l'incoraggiamento al libero mercato. L'amministrazione sicuramente però sta stringendo, diciamo così, i controlli, e questo è indubbiamente. E domani torneremo sul tema quando arriveranno le notizie. Grazie Marco Valsani in collegamento con noi da New York. Devo assolutamente chiudere, una risposta sola: se dopo il meccanismo raccontato si può dire che la Regione Lombardia indirettamente, senza saperlo, stesse finanziando la Regione Sicilia con le sue obbligazioni, sì, è il risultato perverso e paradossale di quello che vi abbiamo poc'anzi raccontato. Da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.